adesso mi accorgo che tutto è lo stesso. Solo adesso mi accorgo di Dio, di Dio, di Dio, di Dio, di Dio. Solo adesso.